quanto il peso, penso che ti invidio. Sei così felice, non riesco a provare odio. La tua vita in allegria, e tutto ciò che vedi, pensi tuo di diritto sia. Ogni tua giornata è laboriosa, ed ogni tua mattina è luminosa. Esistenza è comune e sicura, ti militarato è la tua bravura. Non te ne frega un cazzo di quel che accade intorno, ci pensi qualcun altro, meglio guarda sul bordo. Si come un automa, la male fino a sera, vivi la tua vita, per me è una galera. Sei fortunato, sei fortunato, sei fortunato, ma non capire un cazzo. Sei fortunato, sei fortunato, sei fortunato, ma non capire un cazzo. Sei fortunato, sei fortunato, sei fortunato, ma non capire un cazzo. Sei fortunato, sei fortunato, sei fortunato, ma non capire un cazzo. Tutto ciò che conta è la scala sociale, io sono convinto che niente è più banale. Hai una promozione, è tutto ciò che aspiri, hai una bella macchina, al modo che ti ammiri. Ora me ne accorgo, ho detto una stronzata sul fatto che ti piglio, meglio una fucilata. In TV le guerre ti passano davanti, non è che ciò che bevi, che sono proprio tanti. Tutti via davanti al tuo televisore, voglio essere comandato, voglio un direttore. Sei fortunato.